Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti a... Buongiorno e ben arrivati a Per fare il branco ci vuole un lupo. Buongiorno. Buongiorno. Fino a 2 secondi fa avevo Bronson in braccio e Bronson ha deciso di litigare con me perché non ero abbastanza comodo e quindi se n'è sceso ed è andato mesto in un angolino, anzi ancora qua che gira. Ma... Si vede ancora il fumetto sulla sua testa con le peggiori improperie perché... Non l'ho capito. No, perché ti sei così manifestato come molto molto scomodo. Beh, ho capito, ma cioè, voglio dire, quando era piccino ormai pesa 16 kg, è un peso umano, insomma, mica da ridere, voglio dire. Ma povera Stella, lui non se ne rende poi più di tanto conto. Ma io sì, che non... E visto che la stravecchia naftalina ha deciso di fregargli la cuccia e lui adesso è senza cuccia, vorrei mica che dorma per terra. Sai che tragedia. Solitamente i cani, voglio dire. Vabbè, comunque, detto questo, non facciamoci sentire da qualche educatore cinofilo, di qualche diciamo vecchia scuola che ti dice perché il cane non deve assolutamente, perché sennò non ti rispetta più. E quindi vabbè, lasciando perdere questo e andiamo avanti, andiamo proseguiamo. Questo weekend che si preannuncia, mannaggia, funestato dal cattivo tempo, almeno da noi al nord. E cosa fare giù con il nostro nord. Giù al nord? Cosa fare con il nostro amico quattro zampe quando fa brutto? A parte che il nostro ci ha appena fregato una ciabatta, mi ha appena fregato. Cosa vuoi fare? Inizi a piangere, perché se hai diciamo dei barboncini nani, magari insomma riesci anche a smazzartela in qualche modo e a trovare una situazione più idonea, insomma, lo fai correre, diciamo che un corridoio di casa per un barboncino nano può essere come una pista per un levriero, voglio dire, ecco. E se invece hai dei Malinois, o se hai dei pastori tedeschi, o se hai, insomma, cani di una certa portata e portanza, sono cavolacci tuoi, nel senso brutto della parola, perché sono veramente cavolacci tuoi, perché diventa difficile. Ma i giochi tipo di attivazione mentale, quelli definiti tali, sì. Sì, l'attivazione mentale, attiviamo mentalmente, forse l'attivazione mentale è più per i proprietari, nel senso che io finalmente scoprono... Io mi dimentico sempre dove metto la crocchetta. No, no, ma più che altro guardano il cane e dicono, oh, guarda, il mio cane è un'intelligenza, non è solo un robottino comandato, pensa un po'. Ecco. Oibò. E quindi va, sicuramente sì, i giochi di attivazione mentale sono giochi alla scoperta, quindi a cercare qualcosina, a utilizzare altri sensi che sono il naso. Poi ovviamente sono stati coniati come giochi di attivazione mentale, come ad esempio la semplice ricerca olfattiva è stato chiamato Scent Games, oppure Nose Work, no? Perché fa figo, cioè nel senso, sai, dove vai tu? Vado a fare Nose Work al centro cinofilo, oppure vado a fare Scent Game all'associazione. E poi dicendo queste cose ci lamentiamo se la nonna ci guarda dicendo ti droghi. Che cavolo stai dicendo? Cosa stai facendo? Di la verità. Ecco, e vabbè, sai che io sono tendenzialmente abbastanza polemico sull'ambito cinofilo, ma diciamo che anche recenti sviluppi mi danno sempre conferma. Voglio dire, l'altro giorno ho scritto un post interessante sul fatto che, come le persone, basta documentarsi un pochino tra l'altro in questo, dovrebbero sapere, ad esempio i cani hanno una fase che viene chiamata proprio fase orale. Ma non è noia? Tutto appunto, un imbecille neanche definibile come educatore cinofilo mi disse che appunto questa cosa non era possibile, perché il fatto che un cucciolo assaggiasse un po' di tutto in giro, se non magari mobili o contatto, era noia. Vabbè, ok, d'accordo, ognuno nei suoi punti di vista. D'altra parte non siamo dentro la testa del cane, voglio dire. Certo che sì. Ma un altro suggerimento di cosa fare con nonostante il brutto tempo, beh, il nostro cane il brutto tempo interessa fino a un certo punto, quindi riscopriamo l'antica arte di correre sotto la pioggia. Sì, riscoprila tu l'arte di correre sotto la pioggia, nel senso, c'era un bellissimo romanzo, L'arte di correre sotto la pioggia. No, guarda, l'ho detto a caso. Ma no, nel senso che non ha niente a che vedere con l'arte, con la correre sotto la pioggia, poi in realtà, perché è un romanzo di questo cane che racconta la vita dei suoi proprietari, una vita abbastanza travagliata. Ma d'altra parte c'è una famosa citazione appunto che recita: la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. L'ha detto, cioè, Mahatma Gandhi, non è che stiamo proprio parlando di bau, micio, micio. Pinuccio. sì, diciamo che vabbè, vive anche in un contesto in cui la pioggia ovviamente serviva anche per il lavaggio. Vabbè, no, perché la pioggia, secondo antiche culture, era una benedizione, chiaramente per culture che si che basavano... che non vivevano a Torino, nel senso, no, nel senso buono, che voglio dire, ogni 3x2 a Torino. Cioè, voi immaginate piove, la mia vita tutta così, tutta ascetica e tutto quanto, poi arriva Andrea, no, dipende anche il contesto dove vivi, perché voglio dire, ci sono paesi abbastanza aridi dove dici, cavolo, la pioggia è una benedizione. Diciamo che in Piemonte è uno scassamento di... No, dipende, perché no, tu, dipende, perché, certo, perché tu che con le tue scarpette firmate scendi dalla tua macchinina nuova con il tuo cagnolino appena toilettato, no, forse questione... sì, no. Mentre invece una persona che vive ad esempio di agricoltura, la pioggia è quasi sempre, ovvio, senza le esagerazioni, ma quasi sempre vista come una benedizione. Sì, perché sì, altrimenti... ma questo me ne rendo conto. Il punto è che è uno scassamento di maroni ogni 3x2 caffè. Che bel tempo oggi, ma piove. Ah, va bene, ok. Domani a casa piove. Leggo un libro. Ah, ok, dopo... Vabbè, e il cane infatti ne beneficia dal fatto che legge il libro, è contentissimo. Beh, leggo il libro su come migliorare magari il mio rapporto. L'unico cane. Libro che può interessare al cane è quello che si può rosicchiare, nel senso, quello che si mangia. Comunque no, scherzi a parte, nel senso, dipende anche dove vivi, ci sono zone effettivamente abbastanza, in cui è abbastanza rompi scatole, nel senso, dall'altro, uno che sia più o meno meteoropatico, quando ti guardi e vedi un bel sole, dici, beh, caspita, una bella giornata, molto bene. Quando ti alzi e vedi questo grigiume perenne, anzi, grigiume con la G, però vabbè, fa niente, comunque, scusate questa battuta, mi piaceva tantissimo. Comunque sia, è abbastanza triste. I beta che fanno battute, cioè si potrebbe scrivere un libro sui beta che cercano comunque di fare battute. Vabbè, ma senti, ma alla fine di cosa stiamo parlando? Di tutto un po'. Di tutto un po'. Di tutto un po'. Noi facciamo intrattenimento in questo momento, quindi raccontiamo, guardiamo il mondo che ci sta intorno e raccontiamo con i nostri occhi. Hai capito. E, ad esempio, e siamo arrivati alla puntata numero prima di... Non lo so, però è un bel numero. Prima di scoprire. Ma la mia domanda è, nel senso, ma se abbiamo noi l'alone che non va tanto bene, perché voglio dire, adesso siamo a Torino, piove, eccetera. L'altra settimana invece non eravamo a Torino, dici, cavolo, la terra del sole. Fantastico, si eravamo stava benissimo, eravamo a Pompei, si stava benissimo, c'era un sole stupendo, infatti abbiamo avuto dei problemi con il collegamento, vabbè, un sole stupendo e c'erano gli aranci tutti belli, lì maturi sugli alberi. Io veramente mi ricordo 2 giorni di pioggia, però non so... Vabbè, domenica ha fatto bello. Ah, cioè, no, l'ultimo giorno che andavamo via è stato un bel tempo. Mamma mia. No. E vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto. Ho capito, su 3 giorni, cioè abbiamo 2 di pioggia, 1 di sole. Ma quello di sole è stato stupendo. E quello di sole siamo andati a... Pompei, a Pompei, agli scavi. Sì, ma scavi. E mi piace perché fai queste interrogazioni, ah? Dai, vediamo se ti ricordi. No, perché magari hai visto che abbiamo... cuginetto di nome Alzheimer che non no, ha ancora... No, è perché abbiamo 2 visioni diverse, cioè nel senso 2 ricordi diversi a volte, no? Tu ricordi il sole, io mi sono ricordato che c'era stato il sole l'ultimo giorno, ma gli altri giorni c'era la pioggia. Sarà perché ho lavorato sotto la pioggia col cane? Beh, c'ero anch'io a fianco a te. Vabbè, ma magari te non te lo ricordi più e dici, beh, facciamo perdere. No, è perché la giornata di sole ha cancellato ovviamente tutta la fatica dei giorni di pioggia, lavorare sotto la pioggia. I cani erano divertitissimi comunque a lavorare. Sì, sì, sì. Ma allora, di fatto abbiamo portato giù l'ultimo cucciolo che è stato adottato, Hurricane. L'abbiamo portato giù a Pompei da questa famiglia meravigliosa, la quale ha deciso appunto di adottare questo piccolo terremoto. In realtà è il più dolcino della cucciolata. Tatino. E abbiamo fatto questo lavoro perché noi ovviamente non lasciamo i nostri cani là dove... a chiunque, prima di tutto ci deve essere un lavoro importante, un impegno. È un impegno soprattutto per la vita, non è un impegno per qualche giorno o per qualche ora o per qualche anno, è un impegno per tutta la vita del cane o del proprietario, perché si dice che tendenzialmente l'aspettativa di vita sia di un cane sia minore rispetto a quella di un essere umano, e questo però va un po' in contrasto con l'impossibilità del controllo da parte nostra, cioè non è detto che, voglio dire, ciò avvenga, quindi è comunque una scelta per la vita, che sia essa del cane o che sia essa appunto del proprietario, quindi dell'essere umano. Devo dire che abbiamo scelto comunque tre famiglie a cui dare i nostri cuccioli, davvero davvero fantastiche, davvero. Sì, sì, le famiglie, decisamente, giuste. Decisamente sì, ognuno col suo carattere, così come con i nostri cani, con la sua impostazione, assolutamente. e quindi abbiamo scelto bene, direi, quindi abbiamo portato a termine la nostra missione, ok, da padri e madre adottivi, perché il padre e la madre sono altri, e ne abbiamo accompagnati nel loro percorso da cucciolo fino a, appunto, a portarli a vivere la loro vita. Esatto. E quindi niente, siamo andati giù a Pompei e poi cosa abbiamo fatto domenica mattina? Abbiamo sconvolto Pompei, nel senso, siamo andati agli scavi, è stata bellissima questa scena dove mi sono recata prima alla biglietteria per chiedere se saremmo potuti entrare con il cane, e la signora della biglietteria mi ha detto gentilmente, mi ha detto sì, se il cane non è tanto grande, più che altro perché ci sono dei cani proprio stanziali dentro le rovine di Pompei. Ho detto no, per carità, il cane è un cucciolo. Poi ho detto ok, adesso passa la fase un pochettino, la nota più dolente, e con il gufo posso entrare? E la signora, ok, aspetti, perché sono 14 anni che lavoro qui, non mi è mai stata fatta questa domanda. E perché abbiamo fatto questo passaggio? Perché, come già abbiamo parlato anche in altro podcast, per noi il viaggio è una cosa importante, e viaggiare con i nostri animali lo è ancora di più, ovviamente, salvo che proprio non ci siano proprio le possibilità. Mi riferisco ad esempio a cavolo, dobbiamo andare 3-4 giorni a Londra in aereo, ma per 3-4 giorni non mi porto il cane, nel senso, o il gufo o il falco o il gatto, più che altro perché non mi sembra il caso di fargli vivere comunque un trasporto in una condizione in cui non è proprio agevole e simpatico. Per tutto il resto, ovviamente, i nostri animali vengono con noi. Quindi, qualora ci siano siti anche museali o archeologici, come in questo caso, perché no? Insomma, per dimostrare che un animale ben, come dire, educato, se vogliamo, anche se mi piace tanto la parola, ben adattato, ambientato? Un custode ben educato. Sì, beh, sì, ci sei arrivato dopo, però nel senso inteso, un animale può vivere con noi tutte le esperienze che desideriamo vivere, salvo che non ci siano proprio impedimenti superiori, tra virgolette. Quindi ecco, è stato un po' questo il messaggio, e devo dire il sito archeologico ha risposto prontamente, facendoci poi entrare col gufo e col cane. Sì, siamo stati praticamente la prima ora nella biglietteria a fare foto e a fare elargire informazioni. È stato bellissimo perché abbiamo trovato delle persone molto molto preparate, addirittura che alla fine ci davano le indicazioni loro su che cosa visitare, che cosa era più interessante, visto comunque il nostro tempo un po' ridotto per la visita, ahimè, ma questo solo perché ci dobbiamo ritornare. Sì. Vogliamo assolutamente ritornare a vedere tutto quello che non abbiamo ancora visto, ed è stato davvero molto interessante scoprire con gli occhi anche di una guida il mondo di Pompei, perché ognuno ha la sua casa preferita, ognuno ha la cosa che l'ha colpito di più, no? E quindi ogni persona con la quale approcciavamo, perché poi alla fine ci aspettavano davanti alle case per dirci ah, voi siete quelli col gufo, voi, è stato bellissimo. E ogni persona ci diceva ah, dovete assolutamente andare a vedere questo posto, e tutte quante erano posti diversi, quindi ognuno con i propri occhi, proprio la visita con gli occhi delle guide. Sì, infatti è stato curioso, perché poi a volte, nel senso, anche se quello che abbiamo notato, no, quando si va a fare queste escursioni, magari c'è la guida, proprio quello ufficiale, che ti accompagna. Ovviamente in tutti i siti, cioè in tutte le case, eccetera, eccetera, ci sono gli omini o le donnine, sembra brutto donnine, però inteso i guardiani, diciamo, delle varie case. Pensate, non è brutto dire omini, è brutto dire donnine. Lo so, purtroppo sono queste cose un po' strane. Comunque, e quindi ci sono loro che stanno ovviamente a guardia, e quindi a controllare che nessuno faccia guai o faccia danni all'interno di questi siti. E è curioso riflettere come pochissime persone chiedono a loro del sito stesso, cioè non domandano, o persone che non hanno la guida, quindi vanno in giro e guardano e basta, oppure chi ha la guida si riferisce sulla guida, quindi non chiedono a queste persone che sono lì tutto il giorno, in realtà, perché se fanno un turno di 6 ore sono 6 ore dentro quella casa, e quindi conosceranno persino ogni singolo mosaico, ogni singolo mattone, ogni singolo tassello, e non viene chiesto soprattutto. E cosa credo che sia questa legata alla nostra impostazione stupidissima scolastica, nozionistica, non chiedono quello che loro provano, quindi il piacere che hanno nel vedere quella casa piuttosto che un'altra e le motivazioni. Esattamente come quando si studia l'arte, ok? E la si mette da parte. No, parte quello. No, quando si... tu faccia pessima anche te. Comunque, quando si studia l'arte e ti insegnano quando è nato Pablo Picasso, ma che me ne frega a me di quando è nato Pablo Picasso? Prova a dirmi in realtà quello che Pablo Picasso, magari quali erano le sue emozioni, quali sono le mie soprattutto di emozioni nei confronti di quel quadro, di quel dipinto, di quella scultura, di quel mosaico, di quel cavolo che hanno dipinto fatto, cosa che questa cosa non viene mai viene piuttosto messa, a meno che... Perché lo scopo comunque di un artista è quello comunque di trasmettere emozioni, che siano le sue emozioni in quel momento, che siano le emozioni che vuole suscitare comunque nella persona che vedrà la sua opera, sicuramente quella che è proprio si basa sulle emozioni. Ed è buffo vedere come proprio le emozioni sono l'ultima cosa che viene citata tendenzialmente. E la cosa molto interessante è stata che ovviamente entrando con... due animali, ovviamente il cane è un pochettino più semplice vederlo, come sapete ovviamente di cani ce ne sono tanti, quindi è più usuale, entrando quindi con un cane e con un gufo invece questa cosa non era per niente usuale, quindi questo ha fatto sì, ci ha dato accesso a un mondo anche di questi individui molto diverso rispetto a quello che le persone quando vanno, i turisti diciamo che vanno in giro sono abituati, quindi la straordinarietà di un individuo, quale il gufo, ha dato la chiave per far emergere delle parti più interessanti delle persone a cui sono praticamente abituate a vedere centinaia di migliaia di turisti, senza a volte quasi dialogare, se non dare qualche informazione del tipo, ok, dove è la caffetteria, dove è quella casa, fammi l'indicazione. Dove è il bagno. Dove è il bagno. Quindi è stato molto interessante. Ed è stato stupendo ritrovare il progenitore probabilmente di Sator, un antico avo di Sator, raffigurato su quella che avrebbe dovuto essere la nicchia di una camera da letto di una di queste case. È stato stupendo proprio perché si sono ritrovati, nonostante la diversità, è proprio stato un salto nel tempo, si sono ritrovate molte cose che comunque ritroviamo ancora oggi, ci sono state tramandate ancora oggi, come ad esempio all'inizio di questa casa c'era uno specchio di ossidiana e gli specchi di ossidiana venivano molto utilizzati soprattutto per mantenere lontano, nella loro forma più ruvida, servivano proprio a mantenere lontano le energie negative da quella casa. Ancora oggi si utilizza l'ossidiana per mantenere lontano le energie negative, quindi il potere di questa pietra è riconosciuto ed era conosciuto già all'epoca. Straordinariamente è stato bellissimo notare come ad esempio il gufo era un animale, assolutamente un'ulteriore riprova del fatto che il gufo fosse un animale sacro per moltissime culture. Ad esempio veniva utilizzate queste raffigurazioni per aumentare la prosperità, perché era un simbolo di prosperità. Quindi gufo e civetta aiutavano negli affari, aiutavano nell'abbondanza in generale. Quindi era ritenuto un animale da raffigurare sulle pareti. Pensa un po', quindi quanto quell'iconografia è stata cambiata. Vabbè, ma che se ne abbiamo già parlato in passato, quindi è inutile tornare sugli storici degli argomenti, però effettivamente è un aspetto piuttosto importante. E il messaggio invece, quello un pochettino più terra-terra, se vogliamo, è stato proprio il fatto che viaggiare con tutta la famiglia, con tutto il branco, come lo chiamiamo noi, e il branco non è a convenienza, quindi vuol dire se si decide di fare un viaggio, si decide di fare in un certo modo, tant'è che in questo periodo abbiamo deciso di acquistare un furgone, che per carità è un furgone particolare, il nostro furgone primo, molto, molto brandizzato, quindi è un furgone americano, molto bello da vedere, eccetera eccetera. Ugualmente abbiamo preso questo tipo di mezzo perché per spostarci con i nostri animali era assolutamente necessario. È chiaro che noi avremmo potuto anche fregarci altamente di questa cosa, rinchiudere i nostri cani in un giardino anche molto bello e viaggiare esclusivamente con i mezzi pubblici, sbattendocene del fatto che abbiamo scelto e deciso di avere un branco piuttosto fornito. Noi non ce ne siamo sbattuti, ovviamente, quindi abbiamo deciso di acquistare un mezzo che potesse essere idoneo per tutti quanti, quindi in realtà tra l'altro sul mezzo lo spazio nostro è un po' più ridotto rispetto a quello degli animali, tra devono l'altro devono essere comodi, ecco. E quindi insomma per noi è un aspetto fondamentale proprio per la nostra vita, per la nostra esistenza. Che perché è una meraviglia scoprire lo stupore nei loro occhi quando affrontano una situazione diversa, quando vedono un posto nuovo, quando anche semplicemente quando ti fermi all'autogrill e iniziano a soffiare per terra, sentire tutti i cani che sono passati da lì. Cioè, esattamente come per noi è forte quando viaggi sempre, ti fermi all'autogrill e senti gli accenti differenti, no? Tu dici, mezz'ora fa sentivo un accento piemontese all'autogrill. Ok, magari qualcosa in più di mezz'ora fa, viste le nostre autostrade, però due ore dopo sento quello ligure. Dopo due ore inizio a sentire toscano, dopo due ore sento romano. È fortissimo, anche viaggiare l'Italia, vivere l'Italia attraverso gli autogrill è notevole. E la stessa cosa è quello che provano i nostri animali, perché in ogni pausa ovviamente c'è la loro sgambata, infatti i nostri tempi si dilatano in un modo, i nostri tempi di viaggio si dilatano in un modo imbarazzante. Perché in ogni tappa c'è la loro sgambata, l'acqua, le crocchette per i cuccioli, perché comunque fanno ancora tre passi, quindi è tutto un pochettino a misura, modellato a loro misura. Il discorso è che è fantastico vedere che annusano qua e là e magari sentono anche loro, io immagino che sentano anche loro, ah, qua è passato il danese, qua è passato quell'altro, qua è passato l'altro cane che chissà da dove arrivava, senti che odore strano. Poi non solo, loro sono ovviamente i nostri trainer, quindi è ovvio che viaggiamo con loro anche per questioni lavorative, perché senza di loro non si potrebbe fare nulla, cioè la nostra attività lo faremo sarebbe comunque molto, molto ridotta, insomma. Lo faremmo comunque di viaggiare con loro. Sì, sì, no, a parte quello infatti, certo. A proposito di trainer, vi racconto quello che è successo brevemente, quello che è successo ieri con Artemide, è stato bellissimo. Perché siamo usciti di casa, qua viviamo comunque in un contesto di campagna, quindi ci sono delle altre case con i cani e tutto quanto, e i cani del vicino, che sono un po' rissosetti, sono arrivati incontro alla rete proprio ringhiando, abbaiando furiosamente, e Artemide con la massima calma si è seduta davanti alla rete, li ha guardati, poi si è alzata e gli ha dato una slappata sul naso, proprio una leccatona sul naso. Dice si è slappata? Ah sì, leccata. Ok. Una leccata sul naso e loro si sono fermati e si sono messi a scodinzolare e a invitarla al gioco. E proprio è stato un'esemplificazione di sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ah, sì, sì, sicuramente. Quindi è chiaro che, ma quello insomma, lo dimostra anche la scorsa domenica, il fatto di interagire con loro, l'interazione con loro tira fuori tendenzialmente il meglio di tanti esseri umani. Dice tendenzialmente chi non tira fuori nulla, nel senso, abbiamo poi riscontrato, non è un dato scientifico questo, come sapete, noi amiamo i dati scientifici, ugualmente se non c'è, è inutile che vi racconti delle panzane, chi non ha questo tipo di emozioni, tendenzialmente, nella nostra vita poi, si rivela una persona con la quale è meglio stare lontano, diciamo, non interagire e lasciarla un po' da parte. Per la nostra vita, poi magari per altri sono persone straordinarie, fantastiche, tutto quello che volete. Allo stesso tempo, chi non prova delle emozioni nel vedere un cucciolo, nel vedere un gufo, nel vedere un falco, nel vedere un cucciolo di gatto, insomma, nel vedere un cane che è felice col proprio proprietario, tendenzialmente anche nella vita poi manifesta un grigiume proprio suo abbastanza importante. Guarda, a me in generale inquieta molto il vedere quando siamo in giro con io tengo Satore sul pugno e comunque magari cuccioli e quant'altro. Quello che a me intristisce è proprio vedere le persone che non si stupiscono, l'assenza di stupore. A volte, cioè, non lo vedono neanche. Il passarti a fianco e quasi sbatterti contro senza neanche rendersi conto che hai un gufo sul pugno, ma non perché tutti debbano amare i gufi, per carità, ognuno sceglie come meglio crede per la propria vita. Semplicemente perché non è un animale usuale, il fatto di non scollegare neanche per un istante il cervello e guardarti intorno, apprezzare quello che ti offre, ti viene offerto tutti i giorni, non lo so, a me intristisce molto. Ma sì, decisamente sì, ma intristisce anche quando magari sei a spasso con, ripeto, con i cuccioli, quindi sono 5 cuccioli, il fatto di avere 5 cuccioli non è cosa da poco, e non neanche osservarli per un secondo, soprattutto magari persone, come ho visto anche alcune settimane fa, veterinari che passano con un cucciolo sul bancone, neanche girarsi un secondo a fare un sorriso o dare un minimo di carezza. Io lavoro con i cani da tantissimi anni, eppure io quando vedo un cane, piccolo, grande, bello, brutto che sia, mi butto subito da questo cane, in senso buono, so come interagire, so cosa mi sta dicendo, quindi se vuole interagire bene, se no ovviamente rispetto il suo. Ugualmente me lo guardo il cane, se posso me lo accarezzo, e è proprio più forte di me. Mi chiedo, se lo faccio io in tanti anni, perché non è solo uno o due che dici, sai, c'è l'emozione dell'inizio, eccetera eccetera, mi chiedo come una persona che ne fa anche lui un mestiere non si fermi a osservare, essere curioso anche, perché poi alla fine prendo l'esempio di quando ci siamo conosciuti in Morena. Io sono andato, nonostante i rapaci non fossero, cioè per me i rapaci erano, voglio dire, un becco, due artigli, voglio dire, niente di più. Per fortuna qualcuno in più di due artigli, avrebbe i problemi. Alla fine sono andato lo stesso, perché ovviamente il fatto che io amassi i cani e fossi, i cani fossero la mia missione di vita, ha fatto sì di ampliare questa mia curiosità anche ad altre specie animali. Quindi mi stai rivelando che non ti sei avvicinato per il mio fascino sconvolgente? Ma che c'entra questo? E quindi insomma anche la curiosità di avvicinarsi anche a specie differenti, oppure persone che, oddio, i cani sono la mia esistenza, e poi non si avvicinerebbero a nessun altro tipo di animale. Questa cosa mi sconvolge ugualmente tanto come la persona che non si avvicina a nessun tipo di animale, non prova nessun tipo di emozione nei confronti di un cucciolo. Noi siamo l'eccesso parte. Dall'altra parte, nel senso che facciamo le vocine idiote. In questo Senti chi parla è stato veramente un film cult per me, perché tutte le volte che vedo un cane inizio a fare delle vocine dentro la mia testa, che per fortuna in Andrea ho trovato un degno compare per poter fare le vocine come se il cane stesse parlando, quantomeno parlando la nostra lingua, perché comunque lui comunica mille emozioni, semplicemente bisogna essere un pochettino più abili nel capirlo. E iniziamo a fare tutte queste vocettine, poi mi immagino la testa del cane come un po' per i bambini, no? Quando ci si avvicina un bimbo e dici, perché devi cambiare la voce? Perché devi usare quel tono demente? Infatti, anche tu usi questo tipo di voce? Sì, anch'io. E quindi sì, noi ci ritroviamo in questa cosa e iniziamo a fare tutte le se voci. Se anche del tu cane. Sei un imbecille quando parli col tuo cane, benvenuto nella famiglia. Vabbè, detto questo. Infatti, senso... mentre ho fatto ti, si sono svegliati tutti i cani, sono arrivati. Sì. Non quindi, sono abituati a queste mie voci. No, per niente. E quindi detto questo, ma immagino se appunto fossimo stati in giro per gli scavi di Pompei e ti vedevi una persona con un. Non so, adesso mi viene in mente una cosa un po' assurda, però una tigre al guinzaglio tricerato, ma è la prima cosa che avrei fatto, mi sarei avvicinato con criterio, ovviamente, perché sai, e gli avrei chiesto una marea di informazioni, e ovviamente com'era la sua interazione, cosa questo animale poteva dare, cosa mangiava anche, ovviamente la tigre vegana, vabbè, e perché? Perché il fatto, la curiosità, il pensiero, anche se taluni imbecilli tempo fa su Facebook dicevano che non bisogna pensare nella vita, che uno bisogna solo eseguire, soprattutto mi ricordo di un mio, ahimè, ex collega, che affermava il fatto, in seguito a un post, che un poliziotto non deve pensare, deve solo eseguire. Questa cosa è aberrante, quando le persone eseguono o non pensano o non sono curiose, per me è una cosa assolutamente aberrante. Quindi il fatto di fermarsi, riflettere, pensare, essere curiosi, la curiosità è sintomo sempre di intelligenza, anche nei cani. I cani che sono curiosi riescono a vivere tutta una parte, siamo noi a volte a uccidere la curiosità di taluni cani che vengono magari tenuti da soli in un giardino H24 e magari ogni tanto, quella volta all'anno, si vanno a fare l'autodettatura. La curiosità per me comunque è corvo, sempre. Sì, io, sai, voglio il corvo imperiale, quindi insomma. I corvi hanno una curva di apprendimento che continua a essere costante per tutta la vita, non succede come per gli esseri umani, per tutte le altre specie, che a un certo punto si assesta la curva di apprendimento. E il discorso è che loro apprendono e sono curiosi, i corvi, in senso i corvidi in generale. sono curiosi per tutta la durata della loro vita, quindi ogni singolo istante loro vogliono imparare qualcosa di nuovo. Volendo imparare qualcosa di nuovo, tendenzialmente diventano dei teppisti perché imparano ovviamente le cose sbagliate. E per questo mi piace il corvo imperatore. Io li adoro per questa cosa. Va bene, detto questo, direi che quindi abbiamo chiacchierato di tutto un po', come si dice. Come si confà in giornate un pochettino più plumbe, sì, no? Sarà perché effettivamente ci sta venendo una noia terribile guardando fuori, quindi dici, cerchiamo di... Parliamo di tutto un po', come se fossimo seduti a bere un tè. Come se? Perché bevo il tè? Non lo so, fa molto English time. E vabbè, detto questo, direi che possiamo sentirci la prossima settimana con una... Chissà cosa avverrà la prossima settimana. Chi può dirlo? Detto questo, quindi noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento. Che brutta roba. Che roba orribile che vi diamo, come si dice, un arrivederci alla prossima volta. Un arrivederci alla prossima volta, anche a te non è che proprio sei andato. Vabbè, almeno sei stata creativa. Chiudiamo. Grazie di averci ascoltato, arrivederci alla prossima e buona settimana. Ciao. E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima, da Morena e Andrea. Ciao.